Tra le righe. Dario Albertini a spasso per i padiglioni del Salone Internazionale del Libro di Torino e camminando incontro Sandra Giuliani. L'abbiamo nominata, ma più che lei personalmente abbiamo nominato Donne di Carta, donnedicarta.org, promuovendone l'iniziativa e l'ultima in ordine di tempo, l'inaugurazione dell'Accademia della Lettura a Roma lo scorso 7 di maggio. E a Sandra la prima domanda che mi viene spontaneo fare è: chi sono le Donne di Carta? Le Donne di Carta sono un'associazione inventata da quattro donne, ecco perché si chiama Donne di Carta, non è rivolta alle donne, è solo una rivendicazione di maternità, che si occupa fondamentalmente di promuovere la lettura e la bibliodiversità. Perché bibliodiversità? Perché noi ovviamente appoggiamo l'editoria indipendente. Appoggiamo le piccole librerie, quelle non di catena, appoggiamo chi fondamentalmente ancora pensa che il libro sia un bene culturale e non un bene commerciale. E promuoviamo la lettura in tanti modi, non solo attraverso appunto l'idea di un'accademia, è un nome altisonante, devo dire che già non mi piace più, preferirei chiamarlo Casa della Lettura, visto che nella nostra Carta dei Diritti della Lettura che abbiamo appunto, stiamo proponendo in giro per l'Italia e che ha avuto anche il riconoscimento del Presidente Napolitano e ci fa molto onore perché a noi nonno piace, e quindi fondamentalmente è una Casa della Lettura che si occupa di creare strumenti e stimoli per leggere di tutto. Leggere di tutto significa che non esiste solo la lettura dei libri, esiste la lettura della realtà, esiste la lettura del quartiere in cui si abita, esiste la lettura di una cultura che non si conosce, cioè leggere fondamentalmente, avere gli strumenti per interpretare, per arricchirsi come persona, insieme con le altre persone. E qui infatti si inserisce il discorso delle persone libro, che oggi come oggi, diciamo, c'è una certa coincidenza, confusione tra le Donne di Carta e le persone libro. Donne di Carta è l'associazione, le persone libro sono un'attività dell'associazione. Progetto Fahrenheit 451, chi conosce il libro già immagina cosa facciamo, impariamo a memoria brani di libri, non libri interi, che amiamo, questo è fondamentale, e andiamo in giro ovunque a dirli, ovunque, anche qui al Salone di Torino. Le interviste di Tra le Righe. Hai parlato di supporto all'editoria indipendente e quindi anche alle piccole librerie, hai detto bene, non di catena. Nel corso di questa passeggiata che sto facendo al Salone del Libro ho visto, come era immaginabile, l'ampio spazio dato agli store online. Store online che minacciano gravemente la piccola libreria indipendente, perché vendono a sconti che la libreria indipendente nemmeno si sogna, per parlarci in parole povere. La tua posizione su questo argomento, questo attacco di fatto alle piccole librerie attraverso questa scontistica folle? Guarda, è centrato un grande problema, fosse soltanto il problema dello sconto. In realtà è proprio lì che si individua la differenza tra intendere il libro come un bene esclusivamente commerciale e un bene culturale. Un bene culturale ha dei tempi di costruzione che rispettano il talento dell'autore e rispettano anche il lettore finale. All'interno di uno store, qualsiasi dimensione di magazzino, fondamentalmente, significa che si crea una catena di produzione che si basa sulla quantità. Lo stesso concetto di novità è un concetto folle, perché significa che i libri sono soggetti a scadenza, sono come dei beni deperibili, sono dei beni consumabili, e quindi cosa succede? Il fuori catalogo, il fuori commercio, che è una cosa che uccide il diritto del lettore di avere la possibilità e l'accesso continuo al potere, al patrimonio librario. Uno. La gente ovviamente non si rende conto, perché la cultura spesso è sinonimo o di tempo libero o di cose gratuite, cosa che non è affatto vero, perché c'è un lavoro dietro, nobilitante tra l'altro, perché è quello che permette di creare gli strumenti di alfabetizzazione di una società. E cosa succede? Succede che ovviamente il lettore va a comprare laddove pensa di avere un'offerta più ampia, perché il magazzino dovrebbe offrire più libri, e non è vero, perché offre i libri di determinati monopoli editoriali, e lo sconto serve a, in qualche modo, ad abbindolare il consumatore. Il libraio indipendente non considera il lettore un consumatore, considera una persona che sta cercando e domandando qualcosa. Io voglio difendere ancora una volta con l'associazione l'idea che leggere è cercare qualcosa ed è qualcosa che serve alle proprie vite, e quindi chiaramente anche la figura di competenza del libraio sta morendo, perché in questi magazzini tu trovi il commesso, non trovi il libraio. Il libraio non è solo quello che legge i libri, è quello che capisce anche quando una persona entra qual è il libro di cui avrà bisogno. Che facciamo? Dobbiamo tutelare una razza in estinzione. La lettura come un diritto, e quindi nasce una carta dei diritti della lettura. Sì, che dice che la lettura non è un privilegio, che non va assolutamente praticata come tempo minore e tempo perso, non è un hobby, è qualcosa che serve fondamentalmente a crescere in ogni momento della vita. Ci tengo in maniera particolare a dire in ogni momento della vita, perché spesso e volentieri i cittadini perdono diritto di cittadinanza in alcune situazioni. Vedi le persone in carcere, vedi le persone nel carcere sanitario, cioè in ospedale, in cui il libro diventa soltanto lo strumento casuale di qualcuno che glielo porta invece dei cioccolatini o dei fiori. Mentre il libro è una dimensione che permette, non solo per un discorso di immaginazione, di evasione, per un discorso di consapevolezza, se vogliamo dei cittadini pensanti, se vogliamo che non ci sia una società conformista, dobbiamo appoggiare la bibliodiversità, che significa tanti strumenti diversi di lettura e tanti oggetti diversi di lettura. Chi volesse sostenere Donne di Carta o essere parte attiva delle sue attività, cosa deve fare? Semplice, andare sul sito www.donnedicarta.org e c'è un normalissimo casella postale mail, info@donnedicarta.org. Si può diventare una persona libro e quindi attivare ancora questo discorso di promozione della lettura umana, e tra l'altro adesso le persone libro sono presenti in moltissime città d'Italia, quindi sul sito potete trovare anche i referenti per ogni città, basta arrivare lì con la voglia di ascoltare, ancor prima di dire, ancor prima di imparare a memoria. Le persone libro che si riuniscono dicono libri e qualcuno può andare anche semplicemente ad ascoltarli. Chi vuole invece come editore o come libraio associarsi all'associazione fa catena con noi, e chiaramente noi cerchiamo di promuovere in tutti i modi le differenze e le ricchezze regionali delle varie situazioni. Le interviste di Tra le righe.